Salve a tutti cari amici e bentrovati dal vostro speaker vagabondo Fumino. Benvenuti alla 17esima puntata di Vagabondo in giro per il mondo. E oggi mercoledì 8 febbraio dell'anno politico 2017 sono qua a farmi delle domande su una cosa che mi è stata detta e che mi ha fatto pensare. Cosa è che mi è stato detto? Mi è stato detto praticamente da una persona che lavora in Sud America, una persona tra l'altro dell'Est Europa che lavora in Sud America, che i ragazzi, che i giovani di questo periodo storico stanno praticamente rinunciando a quelle situazioni empatiche, intime, che praticamente secondo me caratterizzano in realtà l'essere umano. Addirittura sembra che i giovani si stiano allontanando dal sesso, cioè alla fine io non è che sto qua a dire il sesso fatelo in maniera sconclusionata, però è chiaramente il sesso è sempre stato un motore della vita dell'uomo e anche della donna ovviamente. Quindi questa affermazione mi ha fatto molto pensare. Allora dice, ma com'è che viene affermata questa cosa? Praticamente secondo questa persona praticamente avere a disposizione tanta tecnologia non aiuta queste cose, non aiuta questo tipo di rapporto, ma anzi allontana, perché praticamente addirittura per quanto riguarda il sesso, praticamente ogni persona il sesso, se vuole, ce l'ha nel telefonino, ce l'ha nel computer, ce l'ha in tasca a qualsiasi ora del giorno e della notte gratis, e quindi sembra molto più comodo, molto più pagante consumare il sesso, il porno, con il telefonino, con i supporti, il computer, piuttosto che cercare di farne dal vivo, quindi di conoscere persone, di entrarci in intimità, un'intimità tale per cui si possa anche alla fine avere un rapporto intimo di questa natura. E questo mi ha fatto molto pensare. Allora io, come sempre, intanto sono andato a prendere il mio vocabolario e mi sono guardato la definizione di empatia. Chiaramente è una parola che si conosce, ha il significato, non è così difficile, però forse potrebbe essere un po' sovrausata, un po' usata in maniera non corretta. Allora, siccome questa parola mi è stata detta in questo contesto, mi sono andato a cercare cosa voglia dire in maniera scientifica comprovata la parola empatia, e adesso vado a leggervi quello che dice il Treccani online. Allora, empatia: in psicologia in generale, la capacità di comprendere lo stato d'animo e la situazione emotiva di un'altra persona in modo immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione verbale, o più in particolare il termine indica quei fenomeni di partecipazione intima e di immedesimazione attraverso i quali si realizzerebbe la comprensione estetica. Bene, letta questa definizione dell'italiano di empatia, e allora sì, cavolo, mi viene di dire che questa persona probabilmente ha fotografato, e allora mi viene di pensare, ma la tecnologia abbassa l'empatia? Cioè, tutta questa tecnologia che abbiamo a disposizione, tutto questo sovrautilizzo della tecnologia ci sta facendo diventare robot? Ci sta facendo diventare automi, incapaci di provare emozioni, incapaci di entrare nelle situazioni degli altri? E questo non lo so, sinceramente sono molto in difficoltà. Certo è che, ad esempio, cosa è successo pochi giorni fa a Venezia? Non so se questa notizia l'avete letta. Cosa è successo? Una persona, uno straniero, un immigrato, un migrante, non so bene cosa fosse, pace all'anima sua, si è tuffato nel Canal Grande di Venezia con l'intento di suicidarsi. Mentre questa persona stava in acqua, stava affogando, le persone dalla riva, chi lo fotografava, chi lo filmava, chi lo insultava, pare, nessuno che si fosse messo a cercare di salvarlo, nessuno che abbia fatto niente per salvarlo. Questo sempre sembra da quello che ho trovato io di riguardo a questa notizia, e questo è molto molto molto grave dal mio punto di vista. Cioè, questo sì, in effetti avete filmato una persona che stava morendo in diretta, ma come si fa? Cioè, io posso anche capire che sia difficile tuffarsi in acqua per fare il buon samaritano, per cercare di salvare una vita umana, però addirittura mettersi a filmarlo o ad offenderlo, poi leggi i commenti, uno di meno, questo è molto molto brutto. Allora io non lo so da cosa deriva questa cosa, se davvero la tecnologia che ci abbassa l'empatia, o se il periodo storico che stiamo vivendo in generale ci abbassa l'empatia, ci abbassa la capacità di voler bene, la capacità di sentirsi partecipi della vita, non lo so. Ragionando sempre su questo argomento, mi chiedevo, ma se invece che uno straniero ci fosse stato un veneziano? Beh, allora, probabilmente non per il fatto che fosse un veneziano, un bianco di pelle, perché alla fine bianchi di pelle sono in tanti, non è detto che fosse stato un veneziano, però fosse stato un veneziano in quella situazione e avesse chiesto aiuto, magari in dialetto, chiaramente qualcuno magari poteva effettivamente muoversi in maniera differente. Questa è una domanda che mi faccio, non è che lo affermo, però me lo chiedo. Oppure semplicemente, essendo una persona del luogo, conoscerà altre persone di quel luogo e quindi era probabile che magari qualcuno di passaggio lo conoscesse e in virtù di questo si adoperasse per cercare di salvarlo. Questo è molto, boh, è molto inquietante da un certo punto di vista. Sono veramente molto molto perplesso. Io non so voi che mi state ascoltando, però a me questa cosa mi fa veramente pensare, non mi piace, e non mi piace. Detto questo, io ragionando con un'altra persona di tutto questo, mi è stato fatto notare, ma forse non è così vero che la tecnologia abbassa l'empatia. Perché se te vedi ad esempio i social network, mi diceva questa persona, vedi, che so, Facebook o Twitter o i social network in generale, te vedi lì e, ne so, apri il Facebook e ti appare la notizia del cagnolino che sta male, del bambino che sta peggio, e tutte queste cose che ci sono ovviamente nei social network. E secondo lui invece questa tecnologia ci porta ad essere partecipi di questa invece sofferenza. Però va bene, questo è un punto di vista, secondo me è un po' non è proprio così, perché è facile dalla tastiera, dal computer di casa, tranquilli, dall'internet point, che ne so, essere partecipi del dolore e tutto quanto, oppure essere quelli, ah sì, perché questa, ad esempio, ne so, ora che è successo il terremoto nei mesi passati ad Amatrice, oppure là in Abruzzo e nel Lazio, che è successo questi terremoti, i social network sono stati tempestati, pieni di persone che, ah sì, perché questo, i terremotati, questo di qui e questo di là, però sono parole scritte su un computer asettiche, clicchi, semplicissimo, non è che ti devi fare chissà che. Cioè, tutta questa gente che ha scritto c'è andata ad aiutare effettivamente chi ne aveva bisogno, oppure no? Perché è facile fare i buoni da casa davanti al PC, e fare, per riprendere una frase celebre dei furbetti del quartierino di qualche anno fa, è facile fare il froci con il culo degli altri, è molto più difficile farlo con il proprio, è molto più difficile mettersi effettivamente in gioco in prima persona per fare qualcosa. Quindi io non lo so, questa domanda veramente mi assilla da un po' di giorni, e sono qua a parlarvene perché effettivamente mi fa anche un po' sfogare da questo punto di vista. È molto difficile per me capire dove sta il confine fra quella sottile linea rossa, fra il giusto e lo sbagliato, se poi c'è un giusto e uno sbagliato, oppure fra i buoni e i cattivi, no? È classico il duale, giusto o sbagliato, buoni e cattivi, bianco o nero, non lo so. Io non credo nemmeno che ci sia tutta questa differenza. Io credo che ci siano delle persone che sono molto molto opportuniste riguardo a tanti argomenti, e il fatto di avere un computer da cui pontificare dall'alto di uno scranno invisibile che non c'è su tutto e su tutti sia molto deleterio per la società. In effetti io mi sposo un po' più con la teoria della persona dell'Est Europa che lavora in Sud America, secondo la quale tutta questa tecnologia ci ha un po' fatto abbassare l'empatia. Beh, cari amici, io vi lascio lo spazio per riflettere su questo e per cercare evidentemente, eventualmente, delle risposte da soli, se ne avrete voglia. Io sono un po' mesto perché effettivamente questa cosa a me mi tocca molto. Sono un po' mesto, ma nonostante tutto vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qua per questa 17ª puntata del Vagabondo in giro per il mondo. Vi do appuntamento come sempre per il prossimo mercoledì per una nuova puntata del Vagabondo in giro per il mondo, e chissà, forse sarà un attimino più riequilibrato, un po' meno pessimista circa il futuro dell'uomo. Cari amici, anche in questa settimana mi raccomando, siate saggi.